America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. On a Jet Plane, John Denver. Vi avevo fatto ascoltare questa canzone in chiusura di una trasmissione, quella trasmissione che dedicai a un camionista, Facchinetti Giovanni Paolo, Paolo Facchinetti, che era determinato a venire a fare il camionista in America. Mi aveva scritto questa lettera che diceva: salve Mr. Platero, ascolto tutti i giorni la sua trasmissione, faccio l'autista di mezzi pesanti, voglio chiedere se c'è la possibilità di lavoro come camionista, truck driver negli States. Vorrei dare un futuro migliore ai miei figli, grazie per la sua attenzione. Ebbene, è un caso questo che mi aveva molto colpito, devo dire che ha colpito anche altre persone. Ne abbiamo parlato con economisti, Luigi Zingales, ne abbiamo parlato col ministro Brunetta. La domanda, oltre alla fuga dei cervelli, abbiamo anche la fuga di persone come Paolo Facchinetti, che fanno dei lavori più normali, che fanno il camionista, ma che vogliono lasciare il nostro paese. E quando gli chiesi se era pronto a partire, mi rispose in questo modo: lei è pronto ad andare in Arizona, è pronto a lasciare Bergamo e andare in Arizona con la famiglia? Domani mattina, guardi. Ebbene, qual è la novità? Qual è la sorpresa? La sorpresa è che Paolo Facchinetti è qui a New York in studio con me. Ho scoperto che è venuto per conto suo in America per cercare di conquistare questo visto. Buongiorno, signor Facchinetti. Buongiorno anche a lei, signor Platero. Allora, beh, devo dire, questa è una sorpresa straordinaria, perché trovarla dopo che abbiamo parlato settimane fa, adesso lei è già qui. Come mai? Cosa gli è venuto in mente? Ma quello che mi ha fatto giustamente scattare la molla è che sono convinto che negli Stati Uniti, se hai un sogno, lo puoi realizzare e si può avverare. Il mio sogno sarebbe quello di avere la patente e di guidare il camion. Se dopo non potrò guidare il camion, però mi prenderò un camion americano e così il mio sogno si realizzerà. E quindi lei è venuto qui a fare che cosa? Perché lei non è che ha un lavoro, cosa sta facendo? Sì, sono venuto appunto a vedere le possibilità che c'erano per quanto riguarda fare il camionista qua, però giustamente, come ho trovato, quando uno poi farà la patente dell'automobile qua, deve passare un anno per poi fare quella dei mezzi pesanti. Qual è la sua idea a questo punto? Ma aprirò un business, così mi verrà dato questo, diciamo, visto di lavoro. All'inizio sarà una pizzeria e poi metteremo anche gelateria, faremo anche gelati. Devo dire, mi colpisce molto, perché lei, l'ultima volta che abbiamo parlato, lei fa il camionista, voleva fare il camionista, adesso pur di arrivare lei è pronto a lasciare tutto e a venire qui e aprire una nuova avventura, fare il pizzaiolo, aprire una pizzeria. Sì, è una pizzeria che si trova è la strada che porta da Philadelphia, va fino ad Atlantic City, dove c'è il mare, dove ci sono i casinò, e è molto trafficata, dunque anche chi viene da New York o da Philadelphia deve per forza passare da questa strada. E quanto costa? Che tipo di investimento comporta questa cosa? Il costo è sui $150,000. Come recupera questi fondi per investire in una pizzeria in America? Venderò casa mia e poi ho le due macchine, la mia e quella della moglie. Ho da parte dei risparmi e così facendo riuscirò a prendere questa pizzeria. Beh, com'è questa pizzeria? Come si chiama intanto? Questa pizzeria si chiama Pizza Town e si trova ad Atco. È grande, 110 metri quadrati, ci sono tre file di tavoli a sedere e poi c'è tutto il bancone, diciamo così, per la pizza, e ci sono tre messicani che ci lavorano. Di sicuro faremo mare dei primi, dei secondi, non tanti, e poi aggiungeremo anche il gelato. E poi di sicuro aggiungeremo anche i panzerotti della nonna Elisa, che è la mamma di Franco, il mio amico che mi ha ospitato in questi 10 giorni che sono stato qui negli Stati Uniti. Che sensazione ha da questa idea di imbarcarsi a fare l'imprenditore? Sento dentro, come dire, qualche cosa che mi dice che comunque non è che per forza uno nasce e per forza per tutta la vita deve fare quel lavoro. Dobbiamo essere imprenditori di noi stessi, dobbiamo sentire dentro che quello che ci spinge a fare qualcosa di nuovo, rinnovarci, ecco. Da camionista a ristoratore, cosa vuol mettere in questa pizzeria? Ma di sicuro aggiungerò il gelato, dato che appunto nel 90 e 91 avevo fatto la scuola a Milano al CAPA, che avevo fatto la scuola per gelatiere, e il maestro era Carlo Pozzi. E che gelati farebbe lei? Qual è la differenza tra un buon gelato? Secondo lei l'America è famosa per avere dei gelati molto buoni o no? Ma quello che differenzia un gelato artigianale da un gelato industriale è l'aria. Nel gelato industriale viene pompata l'aria, diciamo così che l'80% è aria, il 20% è il prodotto che il gelatiere mette nel gelato, però industriale. Invece in quello artigianale la macchina prende l'aria al 30% e tutto il resto invece è ingredienti che mette il gelatiere. Vorrei farle sentire una dichiarazione che ha fatto Brunetta sul suo caso. Se la sente di farlo, che lo faccia. Ovviamente se se ne va per me e se se ne va perché l'ambiente in cui vive lo costringe ad andarsene, per me è un fallimento. Ecco, lei cosa risponde al ministro Brunetta? Ma risponderei che se uno in Italia volesse aprire un'attività o fare qualcosa di suo, già dall'inizio ti frenano con la burocrazia che è lunghissima e complicata, e dunque io non farei mai niente in Italia, ma perché vedo che non vogliono risolvere i problemi degli italiani, prima di tutto degli italiani. Quindi lei, se dovesse chiedere al ministro Brunetta qualche cosa, qualche riforma per poterla convincere a restare, che cosa gli chiederebbe? Il governo italiano dovrebbe riformarsi e essere in meno persone, perché a differenza giustamente anche dallo Stato americano, la comparazione della gente che lavora nel governo americano sono più pochi di quelli che lavorano nel governo italiano. Vuol dire che qui c'è qualcosa che non va, e dunque la macchina governativa costa troppo. E se facesse quello, lei resterebbe oppure ha deciso di venire? Vengo ugualmente. Che tempi ha a questo punto? Sono stato da un avvocato dell'emigrazione e ci vogliono 6 mesi. Lei quanti anni ha adesso? 45. E dunque alla sua età pensa che sia un buon momento per venire e cambiare tutto? Sì, a 45 anni è giusto per ricominciare e rifarsi una vita di nuovo, e comunque non è mai troppo tardi. E quello che volevo dire è che appunto vorrei dare un futuro migliore ai miei figli, alla mia famiglia, e chi non risica non rosica. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Karen O si dà all'opera, l'eccentrica cantante della indie rock band newyorkese Yeah Yeah Yeah. Sta lavorando alla stesura di una psycho opera con il regista Adam Rapp, e dunque di Karen O vi faccio ascoltare Hideaway. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.